Sura settantesima. Al Ma'arij. Le vie dell'ascesa. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Un tale ha chiesto un castigo immediato. Per i miscredenti, nessuno potrà impedirlo, poiché proviene da Allah, il Signore delle vie dell'ascesa. Gli angeli e lo spirito ascendono a lui in un giorno la cui durata è di 50.000 anni. Pazienta dunque, di bella pazienza. Essi lo considerano come fosse lontano, mentre noi lo vediamo vicino. Il giorno in cui il cielo sarà come metallo fuso e le montagne come fiocchi di lana, nessun amico sollecito chiederà dell'amico, anche se sarà dato loro di vedersi. Il malvagio vorrebbe riscattarsi dal castigo di quel giorno, offrendo i suoi figli, la sua sposa e suo fratello, e la sua gente che lo ospitava, e tutto quel che è sulla terra, ogni cosa che potesse salvarlo. Niente lo salverà. Sarà una fiammata a strappargli brutalmente la pelle del cranio. Essa chiamerà chi avrà volto le spalle e se ne sarà andato, chi accumulava e tesaurizzava. In verità l'uomo è stato creato instabile, prostrato quando lo coglie sventura, arrogante nel benessere. Eccetto coloro che eseguono l'orazione e sono costanti nella loro orazione, e sui cui beni c'è un riconosciuto diritto per il mendicante e diseredato. Coloro che attestano la verità del giorno del giudizio e coloro che temono il castigo del loro Signore. Che in verità il castigo del loro Signore non è cosa da cui si possa trovare riparo, e che si mantengono casti, eccetto che con le loro spose o con le schiave che possiedono. E in questo non sono biasimevoli, mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori. Coloro che rispettano ciò che è loro stato affidato e i loro impegni, che rendono testimonianza sincera, e hanno cura della loro orazione. Costoro saranno onorati nei giardini. Cos'hanno mai da affrettarsi verso di te coloro che non credono, venendo in gruppi da destra e da sinistra? Ciascuno di loro desidera che lo si lasci entrare nel giardino della delizia? No, mai. In vero li creammo di quello che già sanno. Lo giuro per il Signore degli Orienti e degli Occidenti. In verità abbiamo il potere di sostituirli con altri migliori di loro, e nessuno potrebbe precederci. Lascia dunque che disputino e giochino finché non incontreranno il giorno che è stato loro promesso, il giorno in cui usciranno dalle tombe in fretta, come se corressero verso pietre drizzate. Con gli sguardi umili, coperti di vergogna, questo è il giorno che è stato loro promesso.